Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. In apertura oggi la riforma della direttiva comunitaria sul distacco internazionale dei lavoratori. Giorni fa i ministri del lavoro hanno raggiunto l'accordo. Il punto centrale dell'intesa è questo: i lavoratori che operano in regime di distacco internazionale devono essere remunerati secondo le condizioni previste dai contratti in vigore nel paese che li ospita e non più sulla base di quelli applicati nei paesi d'origine. Quindi passo avanti sul fronte della lotta alle distorsioni del mercato del lavoro e al dumping sociale. Da questo accordo però sono stati esclusi i lavoratori dell'autotrasporto e su questo oggi ci soffermiamo. Nel vertice dei ministri del lavoro europei è stato deciso che di loro dovrà occuparsi il pacchetto mobilità proposto nei mesi scorsi dalla Commissione europea e peraltro già oggetto di critiche e dubbi. Sta di fatto che la questione è stata così rimandata con il rischio molto concreto che il Parlamento europeo non faccia in tempo ad approvare il provvedimento entro la fine della legislatura, cioè entro un anno e mezzo. Nel frattempo per il settore dell'autotrasporto resta così in vigore la direttiva del 1996 che non prevede alcuna forma di salario minimo e che ora come ora sta determinando un mercato squilibrato a danno dei vettori dei paesi della cosiddetta vecchia Europa a favore soprattutto di quelli dell'est. Il mancato inserimento dell'autotrasporto tra i settori coinvolti nella riforma della direttiva sul distacco rivela quindi quanto sia forte la spaccatura a Bruxelles tra i due blocchi e quanto risulti impervia la strada verso un accordo. Ne abbiamo parlato con Isabella De Monte, parlamentare europeo e componente della Commissione Trasporti. Esiste una spaccatura, possiamo dire, verticale, per cui è difficile trovare un po' la quadra, perché non è tanto una posizione politica quanto una posizione degli stati membri, quindi una posizione più rivolta ad una apertura, ecco come sembra anche orientato un po' il pacchetto a stradale nella proposta della Commissione, ed altri viceversa che invece hanno una posizione più di equilibrio. Io personalmente sono ovviamente per una posizione di equilibrio, perché penso che l'effetto del social dumping, quindi anche dell'insediamento di attività in altri stati per una maggior convenienza, sia una distorsione in realtà del mercato, non sia un segnale di un mercato sano e che deve fornire competitività su altri elementi, quali la qualità, quali l'efficacia del servizio. Tra i punti più contestati dalle associazioni dell'autotrasporto e anche dai sindacati c'è la riforma del cabotaggio, cioè la possibilità di un vettore di effettuare trasporti nell'ambito dei confini nazionali del paese nel quale è giunto per un servizio internazionale. Una possibilità concessa entro determinati limiti, limiti che la Commissione intende modificare. Che avere più i 7 giorni con il massimo dei 3 prelievi dopo il trasporto internazionale, quindi 3 prelievi nazionali, si possa arrivare ad un numero illimitato restringendo il numero dei giorni che arriverebbero a 5. In pratica si vuole favorire così un maggior controllo, anche inserendo un obbligo in tal senso, un obbligo percentuale proprio di mezzi controllati. Questo, se vogliamo, è un principio anche giusto, no? Sappiamo bene che poi i controlli vengono fatti soprattutto sugli operatori nazionali per ragioni proprio di praticità. Dobbiamo arrivare ad un sistema, secondo me, diverso. Forse una soluzione è quella appunto del tachigrafo, che è connesso come provvedimento a quello dei tempi di guida e di riposo. Quindi, purtroppo sappiamo che i problemi sono tanti, no? E sappiamo anche che purtroppo il livello dei controlli non è sufficiente a far rispettare già le regole che oggi ci sono. Devo dire che non sarà una questione molto facile. E a proposito di cabotaggio illegale e controlli sui TIR, arrivano i dati della Commissione Sicurezza Stradale. Nei primi 6 mesi del 2017 è aumentato il numero delle sanzioni. Sono state 748, in tutto il 2016 erano state 887. Significa che se questa tendenza verrà confermata anche al termine del secondo semestre, alla fine dell'anno il numero delle sanzioni risulterà quasi raddoppiato. Numeri comunque ancora troppo piccoli rispetto alle dimensioni dimensioni di un fenomeno, appunto il cabotaggio abusivo, che come denunciano le associazioni è una pratica sempre più diffusa. Altri numeri arrivano da AIRP, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, che ha elaborato dati di ACI, ci dicono che tra il 2015 e il 2016 in Italia il parco circolante di autocarri leggeri e pesanti per trasporto merci è cresciuto dell'1,9%. Si tratta dell'incremento più significativo dal 2008. Su base regionale, percentualmente gli aumenti maggiori sono stati registrati in Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige e Toscana. In fondo alla graduatoria il Lazio, dove invece il saldo è stato negativo. Cresce il parco circolante dei mezzi industriali e commerciali, ma sale l'età media dei veicoli in circolazione, quindi mediamente più inquinanti e meno sicuri. Stefano Carloni è il presidente di AIRP. Ormai i dati della produzione industriale sono abbastanza chiari e ci indicano che periodi molto bui sono un po' alle spalle, che ci troviamo senza fare eccessivi trionfalismi in una posizione diversa, ed ecco che la domanda di veicoli per il trasporto delle merci indubbiamente è in aumento. Da un lato è certo che la domanda di trasporto si sia incrementata per effetto dell'aumento del prodotto interno lordo e della produzione industriale. Dall'altro lato, anche se il parco comunque viene svecchiato a tassi importanti, perché da un anno in rapporto all'altro si vede un incremento della vendita dei veicoli nuovi, probabilmente non è tutto quello di cui c'è bisogno, perché il trasporto in generale è in sofferenza. Chi oggi è molto in sofferenza sono le aziende di trasporto, che sono soggette a una pressione concorrenziale molto forte. Dalle strade alle rotte internazionali delle merci. In queste settimane si fa un gran parlare della nuova Via della Seta, il programma di espansione verso l'Occidente annunciato dal governo cinese. Si tratta di una serie di investimenti colossali per avvicinare la Cina all'Europa e per consolidare un flusso di merci già assai sostenuto. Rispetto al 2001, l'interscambio commerciale tra la Cina e il Mediterraneo è aumentato dell'841%. La Via della Seta tra grandi opportunità e rischi per il nostro sistema logistico, e non solo. Ne abbiamo parlato con Michele Acciaro, professore di logistica marittima alla Kuhn Logistics University. Sicuramente nell'idea che è stata sviluppata dal governo cinese, come Via della Seta non si intende soltanto un insieme di infrastrutture, ma si intende sia una visione economica ma anche una visione geopolitica, quindi comunque ha un peso molto diverso rispetto a una semplice linea di collegamento tra est e ovest. L'idea è un progetto di lungo termine, come spesso accade in Cina, i progetti non vengono sviluppati da un anno all'altro, c'è anche una certa costanza di visione politica per varie ragioni, e quello che è successo negli ultimi forse 30 anni è proprio una strategia di sviluppo del paese, che prima ha visto una fase di chiusura e adesso negli ultimi 15 anni una fase di apertura, e ha anche imparato da forse le multinazionali e da quello che hanno fatto i paesi occidentali a come effettivamente si diventa una grande potenza industriale. Per l'Europa, per l'Italia è un'opportunità, ma bisogna essere anche preparati. Sotto questo profilo mi pare che ci sia qualche timore. È sicuramente un'opportunità, perché la Via della Seta offre un nuovo collegamento e il miglioramento anche del commercio internazionale, quindi in questo senso è sicuramente una buona possibilità. Diventa un rischio, perché è chiaro che non siamo quelli che hanno sviluppato questa strategia, è una strategia che è sviluppata dalla Cina e che quindi ha come scopo fondamentale quello di portare avanti lo sviluppo cinese e non lo sviluppo italiano. Poi ci possono essere delle sinergie, quindi è importante avere una visione d'insieme e concentrarsi per far sì che questo diventi proprio un'opportunità. Rimaniamo a parlare di infrastrutture, questa volta rimaniamo in Italia. Giusto un anno fa o poco più, era il 28 ottobre, a Dannone Brianza un cavalcavia della Milano-Lecco crollò, travolgendo un automobilista, una tragedia simbolo dello stato precario di una parte della nostra rete stradale. Ecco, a distanza di un anno i lavori di ricostruzione non sono ancora iniziati. Sentiamo quando cominceranno dall'ingegnere Fulvio Maria Soccodato, responsabile assetto rete di ANAS. La progettazione del ponte di Annone è stata già completata a livello di progetto esecutivo per l'invio alla conferenza dei servizi, che è stato effettuato a metà del mese di giugno di quest'anno dopo l'autorizzazione del MIT. La conferenza dei servizi si è conclusa con esito positivo a inizio ottobre, attualmente stiamo finalizzando il progetto esecutivo, recependo le poche prescrizioni introdotte dalla conferenza dei servizi per mandarlo poi in appalto entro la fine di quest'anno. E molto dipende da come evolverà la procedura di gara, noi confidiamo di riuscirla a contenere, diciamo, nei minimi di tempi previsti dalle norme e quindi far partire i lavori già dopo la primavera di quest'anno. I tempi di realizzazione sono previsti in 12 mesi e quindi se riusciamo ad aprire il cantiere con un'aggiudicazione efficace già nel mese di maggio del 2018 ci consentiranno di aprire al traffico prima di giugno 2019. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, vi ricordo l'appuntamento del sabato con Container, l'approfondimento di questi temi non dalle 13.15 curato da Massimo De Donato, da Andrea Ferro, grazie per l'attenzione e buona giornata. Hashtag Autotrasporti.